Gasparini De Sandre, che si è appunto occupata specificamente ad esempio delle visite pastorali del 400 e che anche in questo volume Visite pastorali dell'elaborazione dei dati presenta un quadro complessivo dell'area veneta con informazioni di natura bibliografica e di natura archivistica molto dense e molto utili. Quindi noi abbiamo man mano che si procede nel tempo, un vistoso intensificarsi della pratica della visita pastorale. D'altra parte questa verrà testimoniata ampiamente ad esempio dalle visite Barbarigo e dallo studio sul personaggio Barbarigo in un convegno che si terrà all'inizio, credo in autunno certamente a Padova, dove si illustrerà la figura del Barbarigo e si esamineranno però tutti i rapporti anche non solo personali ma anche di pratica pastorale, ascendenze e discendenze, interventi in un contesto molto ricco e molto ampio. È certo però che man mano che si viene avanti nel tempo queste fonti negli archivi cominciano ad assumere una dimensione e una consistenza relativamente ampia, da visite in un certo numero di volumi si passa a visite molto ampie e molto articolate. Il problema diventa quello di dominare quantitativamente la fonte, oltre che di studiarla e di interpretarla. E allora qui ci si può porre proprio la questione come guardare a questo tipo di fonte. Prendendo il caso del Barbarigo, mi viene in mente appunto il suo modello borromaico, ma un modello borromaico che in qualche modo condiziona una parte della stessa struttura, azione delle visite pastorali italiane e non solo italiane, certamente italiane della Valle Padana e dell'area anche Triveneta, ad esempio per quanto riguarda la recezione della stessa costruzione della visita pastorale con una ricchissima serie di materiali allegati, il motivo per cui io prima facevo riferimento a un documento che è un insieme di documenti e di materiali. Quando si prevede una ricchissima serie di indici e di inventari relativi vuoi a persone, vuoi a cose, vuoi a inventari di tutti i tipi, dagli inventari delle reliquie agli inventari dei beni, dagli inventari dei non confessi agli inventari delle cose da fare, agli inventari delle persone da utilizzare, si trova veramente di tutto. E Borromeo ha costituito una cinquantina di inventari che dovevano essere presentati in occasione della visita. E in parte lo stesso Barbarigo nelle sue lettere pastorali prevede, nel momento in cui indice la visita, prevede questo stesso tipo di modello. Ora, questa serie di materiali che vengono richiesti per la visita, noi la troviamo nella sedimentazione archivistica. Io ho in mente, ad esempio, l'inventario dell'archivio di Verona, mi dispiace di non conoscere molti inventari d'archivio, ma quello è stato stampato, dove si indica molto esplicitamente, ad esempio, la documentazione connessa con la visita, ed è tutta documentazione importante, gli itinerari dei vescovi, le annotazioni dei vescovi, i diari, le agende, le inchieste, le rilevazioni, le minute, gli ordini e naturalmente tutti i materiali di inventario o di elenco richiesti in occasione della visita. Ora, questa distinzione, una distinzione fra le carte documentarie e il dispositivo finale, certamente ci aiuta alla comprensione di una realtà archivistica, ma ci dice anche che in realtà connesse con la visita noi troviamo tante altre cose, così come quando noi diciamo fonte notarile, diciamo una cosa giusta, ma anche una cosa sbagliata, perché appunto fra le carte, fra il volume o le filtre di un notaio, noi troviamo una dote, come troviamo un contratto, troviamo un inventario, come un'altra cosa. E sono tutti atti differenti che hanno una loro dignità e una loro utilizzazione dal punto di vista dello storico, diversa. È chiaro che attraverso tutta questa serie di apparati documentari, quando ci sono richiesti, noi possiamo anche andare a effettuare degli studi di tipo differenziato. Una traccia di questo compare, comincia a comparire anche negli stessi studi. Ad esempio, per l'area, in questo caso lombarda, è stata fatta un'edizione parziale della visita pastorale alla diocesi di Como di Filippo Orchinti. C'è stato uno studio che ha individuato le norme generali per la visita, la pubblicazione di visita scomposta per località, gli stati del clero, ma poi tutti i documenti allegati, nomine, dispense, convenzioni, note di fitti, elenchi di entrate, inventari, investiture, elenchi di paramenti, lettere, gride, fino agli ordini per la chiesa, per il parroco, per le chiese dipendenti e così via. Una cosa che evidentemente solo a pensare un intervento di qualche anno fa, ad esempio, non era possibile mettere insieme tutta questa serie di elementi aggregata. Certo, dipende dallo stato della fonte, ma se noi andiamo a prendere in mano le visite del Giberti, per quanto l'archivista di Verona sia molto critico su quell'edizione, noi troviamo che all'interno delle visite del Giberti ci sono gli inventari, così come ci sono momenti di giudizio durante la visita per casi matrimoniali o casi patrimoniali o altri casi particolari, oltre che naturalmente attestazioni di altra natura, più specificamente, più squisitamente diretti al parroco. Ecco allora che noi ci troviamo davanti a una serie di documenti sussidiari che mi pare opportuno mettere in evidenza quando abbiamo a che fare con la fonte. C'è un problema anche di localizzazione, perché la visita pastorale ha certo la sua collocazione naturale negli archivi, però ci sono anche le storie personali dei vescovi e dei visitatori, ci sono le vicende dell'evoluzione delle istituzioni ecclesiastiche, per cui allora noi troviamo talora visite pastorali finite per i periodi più antichi, ad esempio nel notarile. I casi nel 400 sono abbastanza frequenti anche per periodi anche più antichi, ma anche in biblioteche, casi del 700 sono abbastanza ben documentabili, non so adesso per l'area veneta, ma certamente per altre aree italiane noi troviamo anche visite di cardinali poi diventati papi che sono finite tranquillamente in biblioteche comunali. Talora i materiali confluiscono magari in archivio di Stato, talora si possono trovare anche presso i notai di curia o anche presso archivi di capitoli catedrali o ancora archivi di famiglie, delle famiglie d'origine dei vescovi che hanno tenuto le carte presso di sé. Ecco che quando noi guardiamo allora alle visite pastorali, noi guardiamo certo in primo luogo a quello che viene conservato negli archivi, ma appunto in un ambito ricognitivo dobbiamo guardare anche un poco più oltre. Poi naturalmente ci sono anche le forme di ordinamento archivistico e qui vengono le note dolenti, in fondo è un po' anche il tipo di lavoro che ci siamo posti davanti quando, domani lo sentiremo con più attenzione, ci siamo trovati davanti all'idea di organizzare appunto una schedatura computerizzata. Perché appunto rispetto all'integrità degli atti noi ci troviamo appunto gli atti delle visite legati in volumi o sciolti in faldoni, ma appunto secondo criteri che sono i più vari. Troviamo casi di scompaginamento delle visite, del fondo visite, e, ad esempio ordinati per episcopati, oppure registri smembrati per parrocchie. L'ordinamento per parrocchie è un molto più diffuso di quanto si possa pensare, e anche alcuni grandi archivi hanno avuto questo tipo di suddivisione, che ovviamente è molto comodo per un verso dal punto di vista dell'ordinamento archivistico, molto scomodo dal punto di vista del recupero dell'idea stessa della visita. Certo, se ci sono 20 parrocchie la cosa non è problematica, quando sono 400 parrocchie la cosa diventa più difficile, non si riesce a vedere quella che De Rosa definisce pastoralità, il termine a me non è che piaccia moltissimo, però rende l'idea, la pastoralità di un vescovo, uno lo deve andare a inseguire per 400 e passa faldoni quando ci siano. E allora ci sono anche problemi di ricomposizione. Xenio Toscani non più di un anno fa ha fatto la ricomposizione puramente teorica di un volume di visite pastorali del Cinquecento smembrato in non so quante sono le parrocchie del Pavese, in 450 parrocchie, e con pazienza certosina ha recuperato l'ordinamento di un volume di visite pastorali. Questo è un problema che per lo storico è importante, certo, deve tener conto ovviamente della realtà che si trova davanti, che è essa stessa realtà storica, ma appunto nel momento in cui si pone problemi di ricerca deve anche ragionarvi sopra. Poi abbiamo altri casi di smembramento, quando c'è riassetto di circoscrizioni ecclesiastiche, è un problema di ordine più generale. E quando ci sono gli accorpamenti, e soprattutto in tempi recenti accorpamenti diocesani, non mi pare ci siano stati per l'area triveneta, ma in altre zone del nostro paese questi si sono verificati, e talora si sono verificati anche spostamenti, trasferimento di atti visitali. Un problema che mi veniva in mente mentre sentivo la discussione, mi auguro che fra l'altro la discussione possa anche andare avanti, diciamo dopo la parentesi di questo intervento, ad esempio quanto riguarda gli archivi parrocchiali. Io ho in mente il caso, questo è il caso del mio vescovo, ma probabilmente è il caso anche di tanti altri vescovi, che alla mia domanda, ci sono una ventina di parrocchie di area montana ormai totalmente disabitate, non del tutto, ma insomma in parte disabitate, dove non c'è più il parroco ma c'è un servizio parrocchiale gestito da più sacerdoti a turno, eccetera. Allora dico, concentriamo gli archivi. Il problema è che quando si tratta di concentrare gli archivi, le difficoltà non vengono neanche tanto dai parroci, che talora magari si disfarebbero anche volentieri di cartaccia, perché poi la sostanza spesso del discorso è anche questa, quanto delle comunità. Se prima, allora se il vescovo vuole, allora questo diventa importante. Questa è una delle motivazioni che mi poneva il vescovo. L'altro aspetto è che con questo tipo di azione c'è un minimo di barlume di recupero anche di un materiale che fa parte poi o può aiutare la storia della medesima comunità. Ma appunto problemi come questo cominciano forse anche a diventare molto consistenti. Tornando alle visite, allora noi ci troviamo davanti spesso a più volumi raccolti secondo un ordine cronologico, miscellanee legate all'amministrazione delle parrocchie, miscellanee, ma insieme a tutto un altro tipo di documentazione prodotta in un certo periodo di tempo senza legami, oppure documentazione anche all'interno di fondi notarili. Ecco, i documenti sussidiari, a partire da quelli più noti come gli status cleri o gli status animarum, ma appunto sono quelli più noti, ci sono anche tutti gli altri, sono una questione di tempo e di conservazione all'interno degli archivi. Ecco, noi troviamo che talora costituiscono un fondo a sé, talora sono inseriti negli atti visitali, insieme ad esempio al altro materiale delle singole parrocchie, oppure possono essere finiti fra gli atti miscellanei. Io mi ricordo di aver visitato un archivio in cui l'archivista non aveva riconosciuto, ma insomma lì bisognava avere venia per l'età ed esperienza, aveva più di 80 anni, 20 anni fa, non aveva riconosciuto che quegli inventari erano semplicemente gli inventari raccolti in occasione della visita pastorale, di cui non c'era più traccia. C'era più traccia della visita pastorale, ma quelli erano testimonianza di quella visita particolare. oppure possono essere anche materiali compresi in mezzo alla corrispondenza fra le parrocchie e la curia. Spesso, man mano che si viene avanti nel corso del tempo, non ci troviamo davanti a materiali che seguono standard prestampati e predeterminati che segnalano una modernizzazione delle strutture. Io quando ormai parecchio tempo fa, 8 mesi fa, 9 mesi fa, al convegno sul Concilio di Trento, ho detto che in fondo io non mi stupisco molto che ci siano raccolte di informative, di lettere, di documenti prestampati e compilati, e li trovo come, non come un segno negativo, ma come un segno positivo. Cioè il vescovo che si muove di meno, viene valorizzata di più la curia, vengono valorizzati di più gli strumenti di collegamento fra centro e periferia, viene valorizzato l'aspetto di tipo burocratico, se volete così, per così dire, formale, seppure attraverso anche alcune verifiche, beh, dico, questo è un aspetto in cui si segnala una modernità delle strutture in modo non dissimile da quello che si verifica in altre strutture contemporanee e coeve, per cui non mi scandalizzo assolutamente se il vescovo non va in visita, anzi il vescovo farà tante altre cose, ma organizza, casomai lui e la curia organizzano in modo diverso un tipo di lavoro che poi rifluisce sul territorio in altra maniera. Certo, c'è questo obbligo specifico del vescovo, questo diritto dovere sancito dal Concilio di Trento, che evidentemente segnala anche un diverso tipo di coscienza, un diverso tipo di rapporto con la popolazione e con i fedeli. Ecco. All'interno del, e qui potrei anche chiudere il nostro tipo di discorso, se non con una piccola nota, una duplice piccola nota, il problema della inventariazione archivistica dal punto di vista punto nostro è che ci siamo posti davanti al problema delle visite dal punto di vista dello studio, e allora l'individuazione di questionari che rispondano ad alcune domande che possano aiutare alla consultazione dell'archivio senza mai far rinunciare alla consultazione diretta della fonte, perché la fonte è insostituibile, non c'è possibilità di così costruire tutta una serie di strumenti e dire che questi sono alternativi. No, no, assolutamente, se si vuole studiare una visita pastorale bisogna prendere in mano, dopodiché ci sono i problemi se uno sa leggere o non sa leggere, se capisce di che cosa si tratta, se sa che cosa vuol dire un'istituzione, che cosa significano alcuni rapporti giuridici e tante altre cose. Ecco, però, guardando un po' con l'esperienza francese e all'esperienza tedesca, ci siamo posti il problema della inventariazione, che è insieme un'inventariazione di studio, insieme inventariazione anche archivistica in parte, per una così banca dati costruita in modo tale da adattarsi alle esigenze dei ricercatori, però capace anche di stimolare le ricerche, anche la sorgere di curiosità. Umberto Eco, quando è andato in visita a una biblioteca americana, ha visto che in fondo era possibile accedere direttamente ai magazzini d'archivio, ai magazzini della biblioteca medesima, e cercando un libro situato in un certo posto vedeva di fianco tutta un'altra serie di libri. La combinazione casuale o non casuale dei medesimi suscitava poi tutta una serie di stimoli intellettuali e mentali, dei collegamenti che non erano possibili dal semplice ottenimento del libro richiesto attraverso naturalmente gli addetti di biblioteca. Ecco, questi collegamenti sono possibili, sarebbero possibili, utilizzando da una parte appunto in maniera intelligente il repertorio che noi ci proponiamo di fare, che in parte abbiamo fatto. Come ha scritto un amico, come un sentiero in una foresta, il repertorio deve servire principalmente per potersi avvicinare più facilmente ai singoli alberi. Agevola il percorso, ma non esime dal camminare, certo. Questo direi è fondamentale. La seconda cosa, e con questo vado alla chiusura molto brevemente, la seconda cosa è che in questo tipo di lavoro direi siamo stati abbastanza aiutati dall'esperienza di chi ci ha preceduto. In primo luogo bisogna ricordare per forza il Centro per le ricerche di storia sociale e religiosa di Vicenza. Io ero studente all'Università di Padova quando venne presentato per la prima volta il primo volume delle visite pastorali a cura di Bertoli Tramontin nella sede del Patriarcato di Venezia. Mi ricordo che fu un'esperienza, non eravamo molti, devo dire la verità, io ero un ragazzino allora, giovane studente universitario, che a sentire questa cosa per la prima volta mi sono mosso e mi sono trovato, però è andato sull'onda dei ricordi di Edin, io non ho ricordi così lontani, ma insomma ricordi anche più vicini, tuttavia siamo alla fine degli anni 60, quando appunto prese corpo l'idea di una ricerca di registrazione e inventariazione delle visite pastorali dell'area veneta, che poi si è concretizzata in tutta una serie di volumi che credo quasi tutti loro conoscono anche molto bene, e che però ha dovuto fare i conti con appunto l'insorgere delle nuove tecnologie da una parte e con i costi micidiali delle pubblicazioni dall'altra. Eppure, devo dire, in questo tipo di attività ha segnato diciamo un rinnovamento degli studi ecclesiastici nell'area veneta. Certo c'era un humus favorevole, ma trovare un punto di riferimento, un punto di coagulo, un punto di stimolo per una serie di iniziative costituisce sempre una realtà che agevola le ricerche. E allora da questo punto di vista potrei ricordare anche il centro di studi di analogo di Gorizia, sorto più di recente, ma che già ad esempio sulle visite pastorali, ad esempio penso all'Altemps, ha dedicato uno spazio direi decisamente importante e credo che stia andando avanti proprio in questa direzione. In precedenza gli stessi convegni dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica pubblicati sulla rivista Archiva Ecclesie sono punti di riferimento, soprattutto il convegno dedicato alle visite pastorali in Napoli del 1978, dove Archivi Ecclesie è pubblicato poi nel 79-80, che ha messo in evidenza per la prima volta in modo organico la realtà, i fondi archivistici delle diocesi, alcune importanti diocesi italiane, ovviamente non tutte, ma appunto ha costituito un momento importante anche nella riflessione, perché da quel convegno hanno tratto poi impulso nuove prospezioni archivistiche, certo soprattutto nel Mezzogiorno, ma non esclusivamente. Ecco, qui direi che gli storici devono sempre proclamare un debito nei confronti verso gli archivi e verso gli archivisti, con una specie di legge che è stata formulata su una rivista biblica, una specie di decalogo degli studi che è molto divertente. In questo decalogo degli studi, non ve lo racconto, c'è un punto di questo decalogo che dice che i luoghi frequentati attraggono e quelli, inversamente, quelli poco frequentati respingono. Che cosa voleva dire lo studioso con questa battuta? Voleva dire che l'organizzazione di un archivio, una buona organizzazione d'archivio, attira gli studiosi, una cattiva organizzazione dell'archivio li respinge. E con buona organizzazione dell'archivio voi avete tutta la serie delle dotazioni degli strumenti, oltre che della sistemazione dei locali e la presenza di personale. Ma è anche vero che un archivio ben sistemato non solo attrae, ma attrae poi, invita poi alla produzione di studi e a sua volta gli studi sollecitano nuovi studi. Quindi da questo punto di vista è una macchina che una volta che si mette in moto, sia pure molto lentamente, è una macchina molto produttiva anche per le stesse comunità ecclesiali, oltre che per la comunità più in generale. Perché? Perché gli studi di storia sociale religiosa o gli studi di storia ecclesiastica o gli studi relativi alla vita di un ambito, seppure limitato, crescono mano a mano che cresce anche la cultura del paese e a partire dalla fine degli anni 70 con l'immissione. Con l'allargamento della scuola di massa, con la scolarizzazione di massa, con l'accesso di sempre più gente all'università, seppure con un leggero calo in questi ultimi tempi, dovuto a molti fattori, però c'è una presenza molto maggiore che in passato, una domanda molto maggiore che in passato, e anche una presenza molto maggiore che in passato di giovani alla ricerca della storia religiosa, della storia sociale e anche della storia più in generale, che sono attratti molto di più dalla documentazione. Non ci sono più solo quelle poche figure di studiosi isolati che erano i portavoce di una realtà e di una comunità. Oggi ci sono molti più interventi, molte più domande, le domande sono differenziate. Allora ricostruire una realtà sociale, civile e religiosa passa anche attraverso la compulsazione di queste carte. È un ritorno alla documentazione, certo, c'è la peste degli archivi che sono gli studenti di architettura, su questo non c'è dubbio, peste degli archivi in assoluto, dire, con docenti ignoranti, colleghi ma molto spesso ignoranti che non sanno che cosa c'è in archivio, un docente serio la prima cosa che fa va a vedere l'archivio, che cosa c'è, una volta individuato i settori di intervento decide che manda a ragion veduta delle persone. A me, nell'esperienza di archivio, l'ho fatto per la mia diocesi per un po' di tempo, diciamo un giorno alla settimana per alcuni anni, arrivava il tizio che chiedeva: vorrei sapere che cosa c'è della tal chiesa nel tal posto. Dico, vabbè, questo è l'inventario, comincia a guardare, non trovava nulla, però appunto è uno dei tanti casi. Sono peste di archivi sia ecclesiastici che laici, non bisogna credere che siano solo degli archivi ecclesiastici. Ecco, allora questo tipo di utenza alla fine è chiaro, consuma di più l'archivio medesimo, porta però anche dei risultati nuovi, porta a un allargamento delle conoscenze e anche a una valorizzazione diversa di quello che è il nostro patrimonio più generale. Ecco, da questo punto di vista, le visite pastorali costituiscono una fonte che è a metà strada, voglio dire, fra la storia religiosa, che viene a toccare poi la gestione della pastorale, la storia delle istituzioni e la storia della società. Grazie. Ecco, ringrazio a nome di tutti il professor Turchini, il quale ha richiamato un po' la nostra attenzione di tutti, studiosi e archivisti in maniera particolare, su questo fondo privilegiato, un po' che tutti quanti custodiscono, che sono stati tramandati con diligenza in tutti quanti gli archivi vescovili. Certo, se mi è permesso, vorrei dire due cose. Innanzitutto, l'attenzione su certi fondi non ne costituiscono necessariamente la importanza di essi, perché bisogna poi, ecco, guardare le visite pastorali nel contesto del tempo in cui ciascuna di esse si è svolta. E poi vorrei dire una seconda cosa. Giustamente il professor Turchini nella sua esposizione ha richiamato dei modelli. Perché se la norma tridentina, mi riferisco proprio alle visite post-tridentine, hanno fatto carico allo svolgimento almeno biennale o triennale della visita pastorale, nulla però hanno indicato sulle modalità. Sicché c'era una prassi, ma una prassi non istituita, non legiferata, ma della quale poi. No, legiferato. Sì, periodicità, sui beni, sulle cose. No, no, no, no, no. E qui No, San Carlo agiva di sua autorità e non aveva nessuna autorità universale. No, no, no, no, no, no, no, momentino, momentino, sto dicendo cose molto precise. Ci sono i vescovi visitatori, il cui esempio, la cui santità si è riproposta poi come modello agli altri. Momentino, momentino, momentino, momentino. Per cui non c'è una legislazione articolata sulla visita pastorale, ma ci sono dei modelli. Modelli i quali si riproposti. Altro il modello borromaico, altro è il modello Paolotti di Bologna, schemi diversi, altro è il modello meridionale. Non c'è un unico modello. Con questo non voglio dire, io ho fatto degli studi anche sull'era borromaica, sugli influssi borromaici del Mezzogiorno. Ci sono i vescovi visitatori che inventano le visite sulle sue modalità, sui suoi sviluppi, sui suoi tempi, sulle sue incidenze. Ora, questo è molto importante, per cui io credo che nel primo periodo, fino al 1600, occorrerebbe esplorare una copiosa letteratura visitale sul modo come si svolge la visita pastorale. Non sto certamente a ricordarli perché il professor Turchini li conosce molto bene. C'è una letteratura sul modo come si fa la visita pastorale. Significa, questo era tutta una letteratura che aiutava i vescovi ad inventarsi. Certamente c'erano dei punti di riferimento, è ovvio che quando il concilio di Milano, di Fulgata, per tutti i indi qualche cosa, normalmente poi tutti copiano, perché nel mondo ecclesiastico c'è molta imitazione, è normale, fai bene tu, lo faccio anch'io. Quindi c'è un modello che si sviluppa per validità intrinseca e per modalità dell'autore. Certo, poi c'è un altro fatto, io credo che si è voluto dare poco tempo, professor Turchini, però adesso io vorrei integrare, perché lui stesso le sa queste cose, le ha scritte, io da lui le ho apprese, che certamente la visita pastorale del 1700 è diversa, perché la visita pastorale del 1700 è legata anche alla scadenza della periodicità sempre più chiara e accorciata della visita da limina, cioè la visita che il vescovo deve fare a Roma con la relazione che deve adesso presentare. E molto spesso ci sono, noi vediamo che nei formulari, nelle modalità dell'indagine della visita pastorale, si riflettono qualche volta, per esempio Benedetto XIV indica come fare la relazione pastorale, la relazione, e naturalmente proietta un osservatore, un modo di osservare la realtà diocesana. Certamente cambiano i modelli, le modalità di visita pastorale dopo il 1917, ma già sono preparate, lui ha accennato, ed è bene sottolinearlo, con tutta quella modernizzazione di inventari, di questionari a stampa, che mi pare inventate qui nel Veneto, vengono poi ad essere divulgati un po' in tutta quanta l'Italia. Certamente visite pastorali sono anche quelle del post Concilio Vaticano II, in cui cambia tutta l'impostazione, la sensibilità. Ecco, io credo che bisogna tener conto di questa evoluzione storica dello svolgimento delle visite pastorali, perché noi archivisti guardiamo e sappiamo poi illustrare. C'è sempre il solito problema: per far studiare bene le carte occorre la storia delle istituzioni. Beh, se posso fare qualche aggiunta, qualche considerazione. Prima io dicevo no, la prassi no, certo c'è la prassi, ma appunto, qui bisogna essere anche molto cauti. Perché? Perché è vero che il modello di San Carlo è un modello che si è imposto soprattutto nell'area dell'Italia del Nord e in parte anche nel Mezzogiorno, seppure con tempi differenti, è un modello che si è imposto nell'area francese e nell'area tedesca. Ma nell'area francese la cosa è spiegabile, perché era proibita la pubblicazione del Concilio di Trento, però non proibita la pubblicazione degli Acta Ecclesiae, e quindi in mancanza dell'edizione del Concilio Tridentino, ad esempio, sino all'Assemblea del 1610, in fondo hanno supplito gli Acta Ecclesiae, soprattutto nelle aree, ad esempio, del Mezzogiorno della Francia, quelle più legate alla Santa Sede. E poi il modello di San Carlo si è imposto ovviamente dopo che San Carlo è stato proclamato santo, ma già in vita era un modello. Ma dicevo no, attenzione, c'è certo la prassi dei vescovi e una legislazione di chiesa locale, di la verità, di chiesa provinciale. Ma c'è anche qualcosa di più e di diverso. Ad esempio, la legislazione canonica. San Carlo non inventa nulla. San Carlo non fa altro che prendere in mano la tradizione canonica, giuridica della Chiesa, quella che veniva dal Medioevo, quella che veniva dai concili, perché ci sono anche i grandi concili riformatori, riplasmarla e portarla all'attenzione in modo esemplare, questo sì. Però appunto non inventa molto, e rimette in sesto, certo. Poi diventa modello, ma rimette in sesto una legislazione che già si trovava. C'è un secondo punto che vede, appunto, un altro punto, è il fatto che contemporaneamente si affermano però le grandi congregazioni romane, dopo il Concilio di Trento, e c'è soprattutto la congregazione del Concilio che accentra presso di sé tutta una serie di così, direttive, anche di tipo pastorale, di regolamentazione, e allora in questo ambito la centralizzazione romana diventa efficace nel momento in cui non c'è più una legislazione canonica, viene proibito il commento del concilio, si fissa quel modello da una parte e dall'altra ci si rifà ovviamente alla prassi e a una riflessione di ordine teorico. È giustissima l'osservazione sulla letteratura della visita. Per un altro verso, il modello si diffonde, qua il Monsignore ricordava le visite apostoliche, si diffonde anche attraverso le visite apostoliche, perché le visite apostoliche hanno alla loro base, e la cosa non è, cioè, ve lo dico perché ho trovato i documenti, non ho scritto nulla, ci sono dei questionari che sono fissati, questionari della Santa Sede, che sono fissati e determinati e indicano esattamente che cosa bisogna fare in quelle determinate occasioni. A dire la verità, qualche cosa di questi questionari rifluisce persino nella letteratura visitale, perché un importante questionario, modus in visitatione servandus, eccetera, da parte dei visitatori, è poi pubblicato in fondo al primo, uno dei primi trattati della visita. Ecco, quindi allora noi pensiamo di trovare dei materiali specifici, delle volte, in realtà materiale specifico per la situazione e per il luogo, ma molto meno per quanto riguarda i problemi, perché i problemi sono quelli della Chiesa, del tempo, secondo alcune caratteristiche. E un'osservazione che facevo all'amico Prosperi quando presentò il libro delle visite pastorali di Verona, del Giberti, dice: ma non ci sono gli aspetti dell'eresia. Beh, se uno va a cercare le visite pastorali per trovare la storia degli eretici, beh, ha sbagliato tipo di fonte. Come dire che uno va a cercare nei processi ereticali la pastorale, è la stessa cosa, non c'è. Ogni fonte ha delle caratteristiche che sono peculiari e sono le sue, dove certo ci può essere che all'interno di resoconti di visita pastorale si faccia un cenno che in quella determinata parrocchia, in quella determinata realtà, ci sono anche, cioè, il caso di uno che si sospetta che sia eretico, ma appunto è all'interno di un contesto, non è una fonte specifica per quel tipo di materiale, di interesse. Saltando di palo in frasca, con la latenza delle visite pastorali dell'Ottocento, lasciamo perdere l'Ottocento, vengo al Novecento, una casistica, c'è una, credo, una ripresa di visite pastorali dopo il Vaticano II, cambiano però le modalità. A dire la verità, sarebbe da vedere anche un collegamento di tipo diverso, certo mi rendo conto che siamo in un altro caso, ma che tipo di rapporto c'è fra la sociologia religiosa, ad esempio, e le visite pastorali, perché il nascere della sociologia religiosa alla metà degli anni 60, all'inizio degli anni 60, che ha visto indagini settoriali specifiche, beh, si può collegare. Io penso al caso di Lercaro, ad esempio a Bologna. Lercaro Bologna commissiona a un'equipe di studiosi un'indagine sulla realtà diocesana. E il modello di Lercaro non è l'unico, perché nella stessa regione Emilia-Romagna, io ho il caso di Rimini, dove si fa altrettanto una indagine di tipo sociologico per conoscere la realtà diocesana. È uno strumento diverso dalla visita pastorale, non c'è dubbio, ma è pur legato a problemi e problemi della pastorale, mentre oggi ovviamente indagini di questo tipo rifluiscono in studi che ovviamente sono costituiscono meditazioni per i vescovi, promemoria per tutti gli operatori pastorali, per attività che appunto hanno a che fare direttamente con la popolazione italiana in generale e con i fedeli in particolare. Ecco che vuol dire, gli strumenti di cui ci si dota, una volta l'attenzione era magari limitata, ci si legava piuttosto ai testi sinodali, scrutatori dei occhi e ispettori del vescovo, ci si legava magari alle relazioni dei vicari foranei, vuol dire che conoscevano più nel dettaglio quel tipo di realtà, però gli strumenti cambiano. Come finiscono questi materiali in archivio? Questa è una domanda cui io non saprei dare una risposta. Tuttavia, quando non sia un'inchiesta di ordine generale, ma un'inchiesta di ordine particolare commissionata o dalla CEI generale o da un singolo vescovo, bisogna vedere anche come collocarla in archivio. Allora il titolario diventa un problema molto, forse molto più complesso di quanto si possa immaginare. Finirà nelle miscellanee, dove finisce quasi tutto, quando uno non sa dove mettere il materiale, insomma. Chi deve intervenire? Ecco, però non vorrei che si discutesse eccessivamente di visite, perché mi pareva che il discorso degli archivi, visite negli archivi e archivi rimanga tuttora da aperto. Visitare. Da visitare, sì. Prego, monsignora. Sì. C'era Mantes. Sì, ma io mi permetterei di dare questo consiglio magari con fratelli o altri. I professori dell'università tante volte sono alla ricerca di titoli di tesi da dare, perché a volte sono disperati. Perché non suggerire a coloro che frequentano l'università un titolo di tesi sulle visite pastorali? Noi abbiamo centinaia di tesi fatte sulle visite pastorali, non solo, ma allora anche cercare di collegare non solo la storia religiosa che risalta dalle visite pastorali, ma nel contesto socio-economico, quindi agganciando anche non solo il nostro archivio, diremo, della Curia, ma anche l'archivio di Stato e le biblioteche civiche, per dare, diremo, un quadro complessivo in quel momento della visita pastorale della società di allora, diciamo, no? E quindi anche i paesi, ancora, le visite pastorali non viste solamente così nell'insieme, la vita religiosa popolare, allora le confraternite che risaltano, e qui storia risalta specialmente, d'accordo? Allora andare all'archivio di Stato per cercare allora anche dove ci sono gli archivi, diremmo, delle confraternite oppure delle corporazioni religiose. Cioè l'archivista dovrebbe legare tutti questi archivi che ci sono attualmente. E abbiamo la fortuna perché abbiamo, diremmo, questo collegamento, no? Deve essere l'archivista a un certo punto, che dopo una certa pratica fatta, diremmo, a un certo punto, allo studente che viene lì o colui che vuole fare una tesi, dare dei suggerimenti, insomma, no? Per cercare tutte queste fonti di storia di metterle insieme per trovare la vera storia. Adesso nell'ultimo periodo l'Università di Padova stanno valorizzando molto i registri parrocchiali, e sono gli autori della storia. Ma naturalmente bisogna cercare di prendere quei nomi, diremo, e collegarli, diremo, con altre fonti che noi possiamo indicare. Certo, bisogna conoscere le fonti e bisogna indicarli, bisogna trovarli, bisogna farli conoscere, insomma, no. Io e noi altri, le visite pastorali ormai sono centinaia e centinaia di tesi che sono state fatte proprio sulle visite pastorali, quindi è venuto fuori delle cose meravigliose, ma soprattutto nel cercare di collegare tutta la storia, anche civile, anche economica e artistica, direi, vita popolare, eccetera. Bene. E abbiamo avuto la fortuna, noi altri, di aver avuto il professor Marcus e l'università, ma ripeto, non avendo un sacerdote diocesano, diremo titolare della parte della Padova, diremo, suggerire agli studenti dei paesi, delle parrocchie, a un certo punto, e tocca all'archivista del diocesano, a un certo punto, dare questi suggerimenti, no? E quindi invitare i professori dell'università, che sono disperati una volta, non sanno quali tempi dare, anche perché non hanno nessuna esperienza, quando hanno fatto le loro tesi. Ma archivisticamente parlando, Monsignore, sarebbe molto bello se il direttore dell'archivio fosse, non dico onnipresente, ma comparisse in tutte quante le iniziative culturali di carattere storico che si svolgono nella città. E allora diventerebbe quasi un amico dei ricercatori e il punto di riferimento ineludibile. Ha scelto come obiettivo ad esempio le visite apostoliche e utilizzando materiali veronesi e vicentini ha dato tutta una serie di lavori in quella direzione con delle trascrizioni di fonti che credo siano abbastanza utili da quello che mi ricordo. Però appunto il problema è individuare degli obiettivi che ovviamente mettono insieme le forze e le energie che non sono molte. Come non sono poi moltissimi neanche, certo sono sempre molto di più che per il passato, ma ahimè, gli studenti che conoscono il latino, che conoscono la paleografia, vuol dire, quando si va a beccare il 500, il 400 per carità, e il 600 anche, il 700, ogni secolo ha le sue difficoltà e gli studenti che hanno dei minimi requisiti tecnici per poter lavorare decentemente su questo tipo di materiale sono, ahimè, sempre di meno, nonostante la crescita. Dicevo, però, il discorso degli obiettivi mi pare una cosa da recuperare e da tenere presente, anche perché appunto, insistendo con pazienza, nel giro di un certo numero di anni, mettendo insieme varie forze, un obiettivo poi alla fine si può anche raggiungere. Per altri versi mi pareva interessante mettere in evidenza una esigenza che è stata sollevata, il collegamento fra i materiali archivistici. In qualche modo io ho selezionato le visite pastorali presenti in archivio di Stato, presenti in biblioteche, eccetera. In realtà la stessa guida degli archivi ecclesiastici, come la guida degli archivi di Stato, mette in evidenza, per ogni archivio, mette in evidenza la presenza di materiali presso l'archivio X o presso l'archivio Y. Perché? Perché ovviamente fare una storia faccio un esempio, una storia del vissuto religioso di una confraternita attraverso visite pastorali, si può fare, ma è una cosa molto monca se uno non va a vedersi il materiale della confraternita medesima, se si è salvato, ad esempio, grazie alle soppressioni, presso l'archivio di Stato del paese X o Y. Casomai in quel caso la visita pastorale diventa un elemento accessorio rispetto una fonte accessoria rispetto a fonte principale che sono appunto gli archivi delle confraternite. Certo, archivi confraternite si conservano anche presso gli archivi diocesani, però appunto il collegamento fra i materiali archivistici conservati in varie sedi diventa importante, tanto più quando si tratta di avere delle prospettive di ordine generale. A me è capitato varie volte, ad esempio, di dover dare delle tesi di laurea e mi sono sempre rifiutato, ad esempio, di dare tesi di laurea su una parrocchia. Perché una volta, forse 20 anni fa, si poteva anche dare con un bagaglio di preparazione più ampio, per cui attraverso la parrocchia si può ricostruire un microcosmo e attraverso il microcosmo allargarsi anche a orizzonti più ampi. Oggi, in una situazione in cui esiste un localismo esasperato, in cui esiste il rischio, la tensione, la possibilità che si incentivi il localismo, io in genere do tesi che partono dal centro della diocesi, almeno dal centro della diocesi, e sezionano o periodi molto ampi o ampie porzioni del territorio tali da poter permettere dei confronti adeguati. Per quanto riguarda naturalmente poi la valorizzazione degli studiosi locali, certo è sparito Mantese, però insomma, vuol dire, fra Pacini, Reato, Zironda, a Vicenza non state male, devo dire la verità. Cioè gente che continua a occuparsi di storia religiosa in vario modo, con alcune specializzazioni, alcuni ambiti di intervento propri, eppure esistono. Ecco, il problema che si può porre, quando io penso ad esempio al termine che ormai è passato di moda, però il termine esiste ancora, la religione popolare. E mi ricordo che partecipavo alle riunioni organizzative per la storia delle diocesi della Lombardia e una discussione, c'era Rumi, c'era qualcun altro, discussione, ma appunto religione popolare, poi per le diocesi della Lombardia la religione popolare l'ha fatta Don Niro, insomma, interessante anche il tipo di scelta. Nel volume metodologico sulle diocesi lombarde. Bene. Dico, ma religione popolare, il problema è questo, se noi parliamo di religione popolare ghettizziamo una cosa, quando il Vaticano II invita a parlare del popolo di Dio ci invita anche ad assumere una categoria di tipo diverso, che è quella che parte dalla comunità e è quella che viene posta al centro con tutte le relazioni, naturalmente è una comunità inserita nelle istituzioni, nel rapporto filiale con il Vescovo e così via, però si parte dal popolo di Dio, casomai questo deve informare tutto l'operato, per cui parlare di religione popolare, ad esempio, non so che abbiamo delle posizioni differenti, ma cioè, io ad esempio non me la sento, perché? Perché vuol dire semplicemente fissare entro certi schemi, entro certi limiti, un problema che invece dovrebbe essere molto più ampio e molto più articolato, cioè partire dal popolo di Dio permette di rileggere anche la religione popolare. Fissare a priori la religione popolare entro certi limiti vuol dire svalorizzare un invito a una presenza del laicato di tipo diverso, ma qui appunto io difendo i santi laici e meno i santi vescovi, abati, suore, eccetera, eccetera, no, perché dico facciamoli sti laici. Ma io non diciamolo semplicemente, no, ecco, ma la mia reazione era un'altra, colgo l'occasione, che cioè questa indagine della religione popolare a mio avviso è un'indagine ideologica, che è la versione addomesticata di religione delle classi subalterne. E io negli anni 70 ho avuto un'amabile dialettica con alcuni amici antropologi, storici, marxisti, facendo loro capire che loro erano gli ultimi discepoli di San Tommaso. Ripetendo, Gramsci ha detto questo, dunque facciamo ricerche per confermare le tesi di Gramsci. Io di Gramsci ho una grande ammirazione, peraltro l'ho studiato, l'ho letto e riletto, simpatico, un uomo di grande cultura, che non si è mai sognato di avere dei discepoli. Soltanto che i discepoli ideologicamente schematizzati vanno a cercare la religione popolare, non c'è questo concetto di religione, non si ricercano gli schemi. Nell'indagine storica gli schemi devono derivare dal vissuto, dalle dinamiche inerenti, e quindi stare a fare ancora ricerche di storia popolare, a un certo punto sono carta al macero, nel senso destinati a non significare nulla come ricostruzione, soltanto forse come indagine, qualche dato di indagine, per cui ecco, le pregiudiziali io credo che dobbiamo porre, comprendere problemi storici che stanno dentro, ed io sotto questo aspetto penso che l'archivista dovrebbe avere un grande ruolo, aiutare lo studioso. Ecco, l'archivista deve aiutare lo studioso a leggere il documento nel suo contesto nativo. Ecco. Vedete, l'archivista si va delineando veramente come un operatore culturale di grande profilo, di grande importanza, perché la lettura di un documento fuori del suo contesto ha un significato, non ha il significato vero. Per rimanere ad esempio nell'indagine e analisi della visita pastorali, io credo che chi più dell'archivista, il quale possiede la evoluzione dell'intera vicenda della diocesi di fatto, a un certo momento aiuta lo studioso a comprendere il momento nativo, le esigenze native, il contesto nativo, e quindi a dare il giusto senso a quello che il testo dice e a quello che il testo non dice, per fare le domande adeguate e quindi per porsi lo studioso con un atteggiamento realmente scientifico, che è quello proprio di leggere il documento nel suo senso vero, per poi dopo, quando vuole, darci altri significati. Però il primo senso, questo per fare scienza storica, è quello di leggere il documento così come è nato. E credo che questo è un compito che soltanto la rivista Ecclesiastica può dare, perché vede il documento nel contesto degli altri documenti coevi. Ancora, vede, sa il significato del documento nella successione del metodo, della metodologia, dell'istituzione. Siamo chiamati a grandi compiti di responsabilità culturale e scientifica anche noi archivisti. Io credo che con queste parole del nostro amico Monsignor Palese possiamo anche chiudere. Sono le 7. Cioè, mi abbiamo lavorato di dover smorzare il dibattito. Tanto conversiamo ancora, no? In realtà, voglio dire, sulla Regione Popolare si aprirebbero, voglio dire, fiumi di discussione, ma non è questa la quella sede che ci interessa in questa sede momento specifica. Ci interessa piuttosto il dibattito sulla fonte. Il rispetto delle fonti è la prima cosa a cui tutti siamo tenuti, e non dobbiamo mai dimenticare un dato di fatto che io non finisco mai di ribadire: visita pastorale, non dimentichiamo, visita pastorale come altri tipi di fonte ecclesiastica nascono in primo luogo, non dobbiamo mai dimenticarlo, da esigenze ben precise della Chiesa. Ecco, cioè dopo disquisiamo di tutto, ma questa parte prioritaria non la possiamo però trascurare o dimenticare, non la possiamo mettere fra parentesi. Benissimo.